Con Michele Santeramo, autore e attore dello spettacolo Storia d'amore di calcio, al Teatro Era di Pontedera dall'11 al 14 ottobre. Michele, ben ritrovato. Grazie, ben trovato, grazie, grazie Descrivici questo nuovo lavoro. molto. Allora, Storia d'amore di calcio è un racconto sostenuto dalle musiche composte ed eseguite da Sergio Altamura e dalle immagini realizzate da Vito Palmieri, che vengono proiettate, e racconta la storia di del primo campionato mondiale di calcio clandestino che si gioca in un paesino non meglio identificato del sud, tra le varie nazioni di immigrati, compresa l'Italia, perché ciascuno di questi gruppi ha necessità di condurre i suoi affari illeciti, ma siccome si litiga sempre tra gruppi, insomma, allora decidono di smettere di litigare, fare un campionato del mondo, e chi vince il campionato del mondo governerà sul resto della malavita per un anno intero. Così almeno tra loro hanno fatto.